Capitolo 16. Fuori dal palazzo, Bogdanov si incammina lungo la Moscova. Non è il tragitto più breve per tornare all'istituto, ma presto il gelo avvolgerà la città e una promenade in riva al fiume diventerà meno piacevole, tanto vale approfittarne. Sull'altra sponda, le torri del Cremlino contendono il cielo alle mille croci delle chiese e alle cupole dorate di Cristo Salvatore. Dalla sua parte svettano invece le quattro ciminiere della centrale elettrica e le impalcature della gigantesca Casa del Governo, un condominio da 500 appartamenti, tutti forniti di telefono e acqua calda, completo di mensa, lavanderia, cinema teatro, asilo nido e campi sportivi. I lavori sono iniziati in estate e procedono spediti. I vecchi magazzini di sale lasciano il posto ai primi piani dell'edificio, dove si trasferiranno i cittadini illustri. Ministri, scienziati, scrittori famosi, generali in pensione, eroi di guerra. Bogdanov si domanda se ci finiranno anche i suoi vecchi compagni, Lunacharsky, Litvinov, persino Bazarov, che adesso lavora al Comitato per la Pianificazione Economica. In un tempo remoto, il suo amico scrisse che il gusto per il potere doveva diventare un vago ricordo, repellente quanto la carne umana. Chissà se ne è ancora convinto. All'incrocio con il ponte di pietra, Bogdanov decide di non attraversare, ma di arrivare fino alla punta dell'isola. Incrocia le mani dietro alla schiena, il busto inclinato in avanti, in una postura da uomo anziano, a discapito del suo aspetto. Non lo meraviglia che Alexandra Kollontai abbia avuto una relazione con Leonid Volokh. Quella donna non ha mai esitato ad amare liberamente. Ha un figlio, da qualche parte. Tutti loro si sono lasciati alle spalle i legami familiari per sposare la rivoluzione e la lotta per una vita nuova. Ne sa qualcosa e ammira quella donna, o almeno l'ha ammirata quando erano entrambi giovani battaglieri, fino al giorno in cui lei ha scelto il partito invece della verità, come Litvinov, come Lunacharsky. Non può fare una colpa ai vecchi compagni di essere sopravvissuti alla propria giovinezza. Tantomeno può accusare se stesso. A turbarlo è piuttosto il paradosso in cui vivono. Profeti del collettivismo oggi si ritrovano dispersi, ognuno impegnato nel proprio lavoro, ognuno con la propria visione delle cose. Lui è il più separato di tutti, eretico tra gli eretici, ha abbandonato il campo di battaglia della politica, poi quello della cultura per occuparsi solo di scienza. Convinto che le bestemmie di un'epoca possono diventare la verità di quella successiva. Galileo e molti altri sono lì a dimostrarlo, anche un singolo testimone. Può essere importante per chi verrà dopo. Ci crede davvero? O è un modo per difendere la propria convinzione dal senso di solitudine che minaccia di schiacciarla? A chi passerà il testimone? Non certo al giovane Vlados, più fedele al partito che al collettivismo fisiologico. Vlados è un uomo nuovo, fresco di studi, figlio della rivoluzione, ma in particolare figlio del realismo di Lenin. Un'intelligenza sprecata in più. Bogdanov vorrebbe dirgli che il grand'uomo, il cui cervello viene adesso studiato nell'istituto accanto a loro, non si è accorto di aver trasformato il marxismo in un dogma. Ma Lenin non era un filosofo. Quante volte se l'è ripetuto, come volesse scusarlo? Lenin era un politico, il più brillante della loro generazione, al punto che, ne è certo, i nomi degli eretici sopravviveranno grazie al suo, ricordati insieme all'autorità che hanno contestato. Bogdanov ispira a fondo l'odore di cioccolato e caramello che si diffonde dalla fabbrica Ottobre Rosso. Supera la grande facciata di mattoni, crivellata di finestre, e imbocca la passerella sulla diga Babegorod. Ama quella zona della città, che ogni anno sparisce sotto le piene primaverili, riemerge in estate e ghiaccia in inverno. L'inquietudine dell'acqua disegna paesaggi malfermi, una creatura fatta di case, fango, ciotoli, barche e pali di legno. Di lavandaie, baracche, canottieri, pompe idrovore e sentinelle del fiume. Un organismo senza confini definiti che nelle crisi ha trovato il suo equilibrio. Il lungo fiume sparisce e riemerge. I bagnanti diventano pattinatori. La diga sulla Moscova viene montata e smontata come un gioco di costruzioni. Raggiunge la riva opposta e risale la scarpata, fino alla strada melmosa intitolata a Kropotkin. «Compagno Bogdanov!» Una voce interrompe il ritmo dei passi. Bogdanov si volta e inquadra una faccia rubizza. lineamenti grossolani e familiari. L'uomo è più basso di lui e almeno un decennio più giovane. Porta un cappello floscio con la visiera, da operaio. Decisamente non ha l'aria di un agente della GPU. Come se fosse telepatico, un istante dopo l'altro glielo conferma. «Non temete, non sono della GPU. Sono Dmitriev, Viktor Sergeevich. Forse vi ricordate di me?» «Dmitriev. Dove ha già visto quella faccia? In un laboratorio del Prolet Cult?» «Sì, deve essere così, ma meglio limitarsi ad annuire, per non rischiare una brutta figura.» L'uomo gli offre una sigaretta che lui rifiuta, quindi l'accende per se stesso e tira un paio di boccate. «Posso fare un po' di strada con voi?» Difficile credere a un incontro fortuito. «Come volete», risponde Bogdanov, «sto tornando all'istituto.» Costeggiano le baracche di legno dello stabilimento balneare, dove un gruppo di operai smonta la piattaforma dei tuffi. «Dmitriev, non sarà quello che lavorava alla centrale elettrica e scriveva poesie? O era uno scultore?» «Vi chiedo scusa per avervi seguito», dice Dmitriev. «Poeta o scultore ha il dono della sincerità.» «Dovete avere molto tempo da perdere», commenta lui. «Oggi pomeriggio ho il turno di riposo. Avevo bisogno di parlarvi.» «Parlarmi di cosa?» Dmitriev tira l'ultima boccata alla sigaretta e scaglia la cicca nel fiume. «Faccio parte dell'opposizione.» La confessione lascia Bogdanov impassibile. Seguitano a camminare senza fretta, come due vecchi conoscenti a passeggio, e in effetti è proprio questo che sono, anche se uno dei due non ricorda dove si sono conosciuti. Dmitriev attende che un carretto tirato da un cavallo trotti via lungo la strada prima di riprendere a parlare. «So che non simpatizzate per noi, ma non so se trovate insulsa la nostra causa, ciò per cui ci battiamo.» Bogdanov rallenta il passo, volgendosi ancora verso la Moscova. La luce del pomeriggio si distende sull'acqua placida. La domanda di Dmitriev meriterebbe una buona risposta, in memoria dei tempi del Prolet Cult, ma a trovarla è difficile. «Come la penso è alquanto ininfluente al giorno d'oggi.» «Forse potreste dirlo a un vecchio compagno che ha la curiosità di saperlo», insiste Dmitriev. «Per essere un operaio ha una parlata sciolta e proprietà di linguaggio. È bello credere che sia merito dei laboratori di cultura proletaria.» Bogdanov seguita a passeggiare verso casa. Attende che quello accenda un'altra sigaretta. Infine si decide ad accontentarlo. «Penso che la vostra battaglia sia tardiva e fondata su premesse errate.» Dmitriev espira il fumo e osserva la brace in lotta contro la brezza che sale dal fiume. «Avete ragione», replica. «Avremmo dovuto muoverci prima e in modo diverso.» «Non avreste potuto», interviene secco Bogdanov. «Adesso Trotsky, Kamenev e Zinoviev denunciano lo strapotere del partito sui soviet, ma sono stati loro a costruire il partito. Hanno ottenuto esattamente ciò per cui hanno lavorato: una gerarchia di militanti di professione, un partito esercito, un ceto dirigente e autoritario e conservatore. Il fatto che oggi cadano vittime della loro creatura è l'ironia della storia.» Ha parlato con grande calma. Non deve convincere nessuno. Probabile che Dmitriev conosca già il suo pensiero e abbia soltanto voluto sentirglielo ribadire. Nondimeno pondera ancora le sue parole, getta la cicca per terra e la pesta con la suola. «L'ironia si trasformerà presto in tragedia», dice. «Hanno spedito Smilga al confine con la Cina. Di lui si è saputo perché alla stazione, quando è partito, abbiamo fatto chiasso. Ma altri dei nostri vengono allontanati in segreto. Quando ogni voce critica sarà stata isolata, la libertà di pensiero sarà morta in Unione Sovietica. Non è certo questo che Lenin avrebbe voluto, ne converrete. Le celebrazioni per il decennale rischiano di essere il funerale della rivoluzione. Avete ragione, forse troppo tardi, ma vi chiedo, è giusto lasciare che accada senza muovere un dito?» Sono arrivati al dunque, troppo tardi per pentirsi di aver accettato la passeggiata. «Perché venite a chiederlo a me?» «Perché voi non siete come le persone che avete incontrato in quel palazzo», risponde Dmitriev. «Voi non sapete nulla di me», ribatte Bogdanov stizzito. Dmitriev rimane calmo e prosegue imperterrito. «Ci siamo conosciuti, ricordate?» «Sì, alle riunioni del Prolet Cult», risponde Bogdanov. «È per questo che hanno mandato voi...» Subito tace, davanti al rossore imbarazzato dell'altro. «È stato molti anni prima», lo corregge Dmitriev. alla vostra scuola in Italia. Da allora serbo un buon ricordo di voi. Vi devo molto. So che il vostro è un intelletto onesto. Si ferma all'improvviso. Bogdanov non può che fare lo stesso, sbigottito dalla rivelazione. Sono ormai all'imbocco del ponte di Crimea. Per Bogdanov, quella gabbia di ferro e bulloni è la via verso casa, mentre Dmitriev sembra diretto più avanti. «Venite giovedì sera», dice, «un'ora prima del tramonto, davanti ai magazzini Mostorg, di Krasnaya a Presnia. Ci sarà un nostro comizio. Ascoltate con le vostre orecchie, prego». Sfiora la visiera del berretto e si allontana, senza aggiungere altro. Bogdanov lo osserva mentre attraversa la strada. Vorrebbe gridargli di fermarsi, di aspettare, che adesso ha lui qualcosa da chiedergli. Ma non ci riesce e lo vede sparire, oltre la folla di carri e persone.